Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Sergio Basso, regista del film Dimmi chi sono, in uscita con Io resto in sala, giovedì 18 giugno 2020. Sergio, ben trovato. Ciao a te. Lo raccontiamo a chi ci ascolta, cos'è, che storia è questa? È una storia che ho seguito dal 2008, sempre un fumetto di Asterix, c'è un villaggio in Arvernia che resiste al... Si tratta di un campo profughi in Nepal, di bhutanesi. Bhutan è appena a destra del Nepal, ma c'è lì e mezzo, e negli anni 90 chiesero maggiori diritti democratici al proprio re, in tutta risposta gli esiliò, e questi furono costretti a scappare via a piedi, lasciando tutto, passando attraverso l'India, che li rifiutò, e quindi si stanziarono in una giungla nel Nepal, e dato che era gente molto in gamba, erano navigatori, imprenditori nel paese di partenza, in questa giungla si diedero già una struttura, un villaggio, e si misero a insegnare inglese ai figli, avendo capito che che il futuro sarebbe stato la capacità di adattarsi all'estero. Quando è arrivato l'ONU è rimasto spiazzato, perché era un caso di profughi che si era già dato alcune soluzioni, no? Loro hanno creduto nella comunità internazionale risolvere il rapporto con il loro re, e questo è stata la loro rovina. Sono rimasti spiaggiati 30 anni in campo profughi, l'opinione pubblica non li ha degnati uno sguardo di attenzione, dato che non hanno petrolio sotto il sedere, quindi non servono a niente. Ho iniziato a vivere con loro in campo profughi nel 2008, tornando sempre più spesso nell'arco di 10 anni. E mi sono interrogato molto presto su come raccontare questa, che è una tragedia, è un'odissea, e per farlo, per raggiungere le orecchie dello spettatore europeo, che è pieno di idee già e un po' saturo anche, non ne vuole sapere a volte di altri vivi, di altri destini, a un certo punto passando un pomeriggio con gli adolescenti del campo, li ho visti provare delle coreografie delle loro danze alla Bollywood, e mi sono detto, ma se lo raccontassimo tramite la forma del commaflatta, tra l'altro, alla loro tradizione, cinematograficamente ha un senso e potrebbe essere la forma che raggiunge la disattenzione, ma che perfora, lascerà il velo di disattenzione degli occidentali. E quindi abbiamo portato avanti questo progetto, sono tornato in campo profughi con una rockstar nepalese che è diventata un etnomusicologo, sono andati in motocicletta e con un registratore stereo a registrare tutte le musiche tradizionali di questo popolo, diamo un nome ai protagonisti, loro si chiamano Lo Champa, e da lì Livio e Aldo Descalzi, musicisti eccezionali, hanno riarrangiato le arie tipiche dei profughi. Poi sono tornato con un grandissimo coreografo italiano, Matteo Gattardo, che è esperto di coreografie per musical, ad esempio Madagascar o Priscilla, no? Le versioni italiane di questi di Broadway, che è venuto con me diverse volte e assieme a coreografi locali ha settato il tiro per insegnare i profughi a ballare alla Bollywood sempre meglio. Fondamentalmente l'idea è stata quella di intercettare il loro talento e già la loro disposizione verso certe grammatiche, chiamiamolo, e portare tutto questo verso la forma tipica. Il racconto, abbiamo deciso di seguire il punto di vista di una ragazzina di 12 anni. Una mescolanza, c'è il film di finzione, c'è il documentario e c'è il musical. Sì, diciamo che poi è stato fatto un grosso lavoro di, se vuoi, di color correction, di adeguamento dei vari materiali, anche perché proprio da un punto di vista tecnico parliamo di riprese che sono state dal 2008 al 2017-2018, quindi nell'arco di 10 anni anche le modalità di ripresa sono cambiate, i protagonisti cambiavano. è stata una grossa scommessa anche progettare come mescolare assieme i materiali in quella che deve essere una unità di narrazione. Parliamo di 100.000 persone in questo campo profughi, a quanto si dice nel film un sesto della popolazione totale del Bhutan. E che impressioni hai ricevuto sullo spirito di questo popolo? Cosa hai apprezzato di questa gente? È stata un'esperienza che mi ha rivoltato come un calzino, mi fa sempre molta impressione poi ritornare dal campo profughi alla nostra realtà. È vero che ogni sistema sociale ha le sue fonti di stress, per così dire, però quando vedi come enormi sacche di popolazione vivano con niente, anche l'infanzia mi è passata a giocare con stracci, letteralmente, cioè ho visto trenini realizzati con tassi legati tra loro, no? Ed era il trenino con cui giocavo. Ho visto i volontari del campo profughi cercare, volontari dello stesso popolo, lo Chan, cioè si davano delle strutture di sorveglianza, no? Per così dire, cercare di impedire ai bambini di giocare nelle fogne come se fossero dei fiumi, letteralmente giocare con palle di stracci e gioire di questa cosa, cioè essere capaci di trovare la gioia. Una cosa che mi ha fatto molta impressione è che un campo profughi rischia di sembrare una sorta di camping spartano. Il problema è il passaggio del tempo, cioè sei immerso in un eterno presente, è come se fossi in pensione però a 8 anni, no? Ma c'era abbastanza lo spirito di una persona, e anche di una persona tipo di 20, 25, 30 anni che vorrebbe essere professionalmente utile, attiva, contribuire alla società civile, non già ritirarsi. E allora la risposta è stata l'invenzione di continue feste. Questa cosa mi è piaciuta moltissimo, cioè c'era sempre un pretesto per festeggiare ed erano sempre pieni di entusiasmo, di questi pinnacoli che interrompevano il continuum, no? Per cui c'era la festa dell'insegnante, la festa di Shiva, la festa dei bambini, no, la festa della gioventù. Ogni 2 settimane, 3 settimane c'era un evento eccezionale, per cui loro gioivano in questa maniera. Ogni giorno era passato nella degustazione dell'aftertaste, no, del retrosapore della festa che c'era stata e nella preparazione della festa che stava arrivando. Ho trovato che fosse un metodo educativo geniale da parte degli adulti da consegnare alla loro generazione successiva. Un'altra cosa dilacerante è che la soluzione della comunità internazionale a conflitti di questo tipo è il cosiddetto resettlement, ricollocamento, per cui non si spendono energie, si prova per verità a placare il problema politico innescato dall'esilio del re, ma quando non ci si riesce, e nel 95% dei casi dei campi profughi nel mondo non ci si riesce, si passa alla rendita all'altro dei profughi presso le nazioni che sono disposte a riceverle, no? Per cui si dice: quale nazione vuole prendere tot profughi? È una questione di accettarli nella propria cittadinanza. Questo processo, dato che questi profughi sono finiti in Norvegia, Danimarca, Svezia, Stati Uniti, no? E Canada, tempo una generazione asfalta l'identità culturale di partenza di queste persone, soprattutto se pensi che i bambini sono nati in campo profughi, non hanno mai conosciuto il Bhutan, quando poi hanno 18 anni li prendono e li portano in Canada, faranno molta fatica a preservare qualcosa della identità di partenza, anche perché la scommessa della riuscita nel nuovo contesto sociale è essere pronti, flessibili ad accettare le modalità di vita occidentali, no? Questo a un giovane può sembrare il meraviglioso mito della green card, ma so di diversi casi di suicidio, ad esempio, di 50enni, 60enni, che una volta conquistato il resettlement, no? Bhutanesi che hanno passato 25 anni in campo profughi sperando di tornare ai propri pascoli, li prendono e li mettono negli Stati Uniti. Per moltissimi sembrerebbe la realizzazione di un mito: ah, ma che fortuna che fai per stare qui. Loro si sentivano totalmente inadeguati per tantissime ragioni, anche per quanto avessero studiato inglese tanti anni, 50 anni non è che cambia completamente la propria lingua così, è abituato a certi sapori, a certi culti, a certi riti sociali che sono facilmente devastati nel trasferimento. Quindi è un po' un ginepraio, no? Se vuoi, la scommessa di raccontarlo con la musica e la speranza di ricostruzione di una dodicente è per dare un senso di futuro, di ottimismo, di flessibilità e di speranza. La scelta di questa forma distributiva? Nasce da diversi fattori. In primo luogo, nella mia più totale fiducia in Alessandro Borrelli, che è il produttore del film e ci ha creduto per più di 10 anni. credo che nessun altro in Italia sarebbe stato capace di questo coraggio, di questa visionarietà e anche di questa scommessa, cioè quando andavamo in giro a dire vogliamo fare un museo in un campo profughi ci trattavano come, no, dico, come nomadi. E Alessandro da tempo ha sviluppato la capacità di distribuire i film in cui crede, ed è la Sarrazzo Distribuzione. Questa distribuzione si è saldata a una realtà particolare, io resto in sala, che trovo iperencomiabile in un periodo folle, e sale per non perdere il contatto con il proprio pubblico, si sono strutturate in piattaforme online, quindi il film avrà una prima uscita digitale e trovo che sia un gran bene per un film di questo tipo, per cui da ovunque in Italia si può vedere il film facendo del bene alla sala materica più vicina, e sono tantissime le sale vicine davvero in tutta Italia che hanno preso il film in programmazione. A questa distribuzione online farà seguito la distribuzione vera e propria, fisica, appena la gente sarà anchilosata e avrà preso l'abitudine ad andare al cinema, hanno dire le estive, eccetera, e poi continuerà la distribuzione anche in autunno e anche in contesti scolastici, non solo. La scommessa è veramente di raggiungere un pubblico anche giovane, subito, online, in musical. Si tratta di parlare di temi tosti in maniera effervescente. Speriamo che la scommessa. Dimmi chi sono, in uscita con Io resto in sala, giovedì 18 giugno 2020. Un saluto e un ringraziamento al regista Sergio Basso. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima, Sergio. Ricambio l'abbraccio. Ciao. Con Gianluca Guzzo di My Movies per presentare due progetti, Io resto in sala e Mio cinema. Gianluca, ben trovato. Ciao, ciao, eccoci. Ci eravamo sentiti all'inizio del lockdown, quando My Movies ha esordito con la sua piattaforma e adesso, dopo la riapertura, prosegue con altri progetti. Raccontaci un po'. Sì, è vero, ci siamo sentiti esattamente subito dopo la nostra reazione a quello che è la nostra risposta, più che altro quella che siamo in qualche modo stati travolti e costretti a stare a casa, è stata quindi una risposta a questo tipo di esigenza. Da questa necessità però ne sono nate delle altre, che sono poi diventate anche probabilmente delle opportunità. E l'opportunità è stata quella di costruire delle piattaforme apposta per il territorio e nello specifico per la sala cinematografica. La sala cinematografica, già Io resto a casa, nel modello di My Movies, nasceva per accendere un dialogo tra lo spettatore e il cinema, con le due operazioni, Io resto in sala da una parte e Mio cinema dall'altra, si sono riattivate le sale cinematografiche e hanno loro personalmente avviato un colloquio con il proprio pubblico, perché queste due piattaforme hanno questa straordinaria facoltà di riaccendere, riattivare, riavvivare il dialogo tra sala cinematografica e pubblico, e questo è straordinario. In due modelli diversi, che però riunisce questa cosa qui, probabilmente riunisce due cose, riunisce uno il motore, che è la piattaforma My Movies Live, e l'altra l'attenzione che queste due piattaforme hanno nei confronti delle sale cinematografiche e del proprio pubblico. Ci racconti un po' i due panorami di Io resto a casa e Mio cinema? Sì, dal punto di vista dell'offerta sono due offerte che lavorano esattamente come fanno le sale cinematografiche, c'è un grande lavoro, entrambe lavorano per dare valore alla selezione, che è quello che le piattaforme a cui siamo abituati non fanno. E quindi un lavoro maniacale sulla selezione, un lavoro sulla proposta editoriale. Quindi abbiamo visto delle bellissime proposte sia fatte sul Mio cinema che fatte da Io resto in sala. La differenza vera tra le due piattaforme è che Io resto in sala è esclusivamente la sala cinematografica a lavorare, quindi la sala cinematografica in completa autonomia lavora con il proprio pubblico e racconta dei propri film, si pianifica i propri film, li programma esclusivamente da sola e li propone. Dall'altra parte invece, nel caso di Mio Cinema, è centrale la cassa, è centrale il pagamento, quindi paghi direttamente sulla piattaforma e non paghi nella sala cinematografica, nel nostro caso pagheresti nella sala cinematografica. E sul Mio Cinema invece rimane centrale anche la selezione dei film, quindi insieme tra Circuito Cinema e Lucky Red, insieme a The Movies, lavorano per fare una selezione di film per portarli online. Entrambe le piattaforme, quanti soggetti raccolgono? Quante sale aderiscono? Sono tante sale, parliamo di diverse centinaia di sale cinematografiche che continuano a crescere, sia per Mio Cinema che per Io Resto in Sala. Sono due realtà che crescono molto bene, crescono in termini di audience e in termini anche di sale cinematografiche che aderiscono. Un modello straordinario, un modello molto interessante ed è quell'accelerazione che probabilmente le sale cinematografiche di cui avevano bisogno. È stata straordinaria la reazione che i cinema hanno avuto a favore di questa iniziativa, perché dal lancio, ma e anche poi quando le sale saranno aperte, ogni sala cinematografica avrà la possibilità di poter offrire al suo pubblico anche una proposta digitale, una proposta online, e questo è straordinario e meraviglioso, e sono certo che tutte le sale aderiranno all'una o all'altra iniziativa, o altre sale, come qualcuna sta facendo, si addirittura si fa la propria sala virtuale, sempre attraverso la nostra piattaforma, magari anche con altre. Però in questo momento anche il cinema della Compagnia di Firenze, per ospitare anche tutti i festival che si susseguiranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ha deciso di fare la propria piattaforma, sempre con il motore del Movies Live, che ospita i suoi film della sua sala cinematografica e poi ospiterà i vari film festival che ci saranno dall'estate in poi a Firenze. Questo è straordinario, perché si ritrovano i piccoli film, i film di qualità, i film indipendenti e d'autore trovano finalmente spazio, uno spazio che prima sul digitale non riuscivano a trovare, perché era esclusivamente la sala cinematografica che riusciva a curare questo tipo di film. Oggi hai la possibilità di avere cura anche sul digitale e sull'online. Una volta che uscivano dalla sala cinematografica, alcuni film si riducevano a fare poco niente sulle piattaforme digitali. Questi film oggi hanno la possibilità di una nuova rinascita, di un nuovo posizionamento, perché ci sono persone che curano questi film esattamente come li curano nella sala cinematografica. Questo è veramente un traguardo straordinario che siamo riusciti ad ottenere. Qual è la tua impressione? La riapertura si sosterranno a vicenda, la sala e il digitale? Sì, direi assolutamente di sì, ma non solo è la mia personale visione, ma è anche il modello di come stanno immaginando di strutturare l'offerta, perché l'offerta è strutturata proprio in questi termini: hai un film offline e online ti vengono proposti tutta una serie di film a supporto di quel film che è in sala. E questo è solamente un modello. Un altro modello straordinario sono i film che via via vengono proposti sporadicamente nelle sale cinematografiche. Le sale cinematografiche, lo sappiamo, spesso fanno questo lavoro di portare dei film solo per un giorno, solo per due giorni. Ecco, questo tipo di investimento, quando una sala cinematografica decide di programmare un film e decide di programmarlo per un solo giorno, chiaramente è un grande investimento per la sala cinematografica. È un investimento che sì, probabilmente avrà il tutto esaurito quella sera, però è un investimento che si esaurisce però proprio in quella sera lì. Avendolo poi disponibile anche online con le determinate finestre che la legge permette, quindi il momento in cui potrà essere poi disponibile online, quella serata che la sala cinematografica ha fatto per quel film, quell'investimento ritorna anche per la parte online. E questo darà, secondo me, nuova linfa a questo tipo di modello. Quindi molto probabilmente tanti piccoli film troveranno spazio sia nelle sale cinematografiche, ancora una volta, e anche di più, e sia online. Ho questa visione, per cui il momento in cui riapriranno le sale sarà ancora più forte, funzionerà ancora di più, perché è una piattaforma che si basa sul dialogo tra sala cinematografica e il proprio utente. Se la sala cinematografica riapre il proprio dialogo con il proprio utente, la piattaforma non può che andare meglio. Nel salutarci ci lasci tutti i riferimenti? Sì, per Mio Cinema è miocinema.it, basta entrare, il pagamento è con carta di credito per ogni singolo film, quindi si può scegliere i film che sono in selezione, sono tantissimi, sono bellissimi, e poi si avvicinano molto a quello che è la situazione attuale, insomma, non è un caso, ad esempio, che riprenderemo nei prossimi giorni il film di Roberto Minervini, Per fare con del mondo in fiamme, legato all'attualità. E quindi da una parte questo tipo di offerta, dall'altra parte invece su Io resto in sala basta andare sul sito online della sala cinematografica preferita, cercare quali sono le proposte delle varie sale, sono tantissime sale, c'è molta più autonomia, no, nella gestione di Io resto in sala, quindi è il programmer della sala cinematografica che decide di programmare il film, quindi andate nella sala cinematografica del proprio cinema di riferimento, sul sito ufficiale, trovate lì la programmazione, scegliete il vostro film, il momento in cui avrete scelto il vostro film e l'avrete acquisito, l'avrete acquistato, riceverete un codice. Attraverso questo codice poi tornerete su MyMovies e vedrete il film. È più facile a farlo che a dirlo. È molto semplice, sia la prima che la seconda proposta, sono due proposte straordinarie che aiutano il cinema di qualità e la cultura. Sono molto contento di aver contribuito a entrambe le soluzioni. Io resto in sala e Mio Cinema, un saluto e un ringraziamento a Gianluca Augusto di MyMovies. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima, Gianluca. Grazie, alla prossima, alla prossima. Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB, distribuzioni dal basso, per le novità del mese. Paco, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti e tutti, è un piacere risentirci, da un po' quella sensazione di tornare a una vita più o meno normale. Ci eravamo sentiti ad inizio lockdown per i lavori che avevate messo disponibili in streaming e poi c'è stata la riapertura, per cui ti chiedo un bilancio sia del periodo di chiusura che adesso di questi primi giorni di riapertura. Certo, beh, allora chiaramente insomma, abbiamo passato tutte e tutti un periodo decisamente complicato per diverse ragioni. Noi quello che abbiamo fatto nel nostro piccolo è partire praticamente poche ore prima del lockdown ufficiale con lo streaming di comunità, che è stato un gesto, se vuoi, anche di pancia, nel senso che è chiaramente stato un gesto politico, ma non solamente quello. È stato anche un gesto di risposta emotiva da un certo punto di vista rispetto a quello che stava succedendo e quel poco che potevamo fare con i nostri piccoli mezzi. È stata una cosa per noi però importante, non solo perché tante persone lo hanno seguito nei 64 giorni ininterrotti di programmazione che abbiamo fatto gratuita, ma è stato importante anche perché ha dato un segno che per fortuna poi in tantissime persone ha seguito, anche altre autrici e autori, sia del nostro catalogo, perché abbiamo proiettato più di 150 film in questi 64 giorni, ma anche al di fuori del catalogo, nel senso che è passato proprio un messaggio che in tanti hanno colto e era il momento di farlo, mettiamola così. Dopo 64 giorni abbiamo deciso di interromperlo, anche perché appunto eravamo anche un po' stanchi anche noi, ma comunque bisognava dare un passaggio anche da quel punto di vista, e poi abbiamo avuto il piacere invece di lanciare il nuovo sistema streaming, perché quello, lo streaming di comunità era un'azione temporanea, anche se vuoi tecnicamente molto improvvisata, nel senso che era una sorta di pagina statica dentro il sito di OpenDDB dove andavamo proprio a caricare settimana per settimana lo streaming. Il nuovo sistema streaming invece, che è OpenDDB.stream, è un vero e proprio sistema stream con l'intero catalogo, come già lo conoscevate prima. Oggi io non sono più disponibile in download, ma anche con un vero e proprio stream, quindi con un account personale, una libreria personale. La cosa importante è che abbiamo deciso di mantenere esattamente lo stesso modello di prima, sia dal punto di vista dell'accesso alle opere, quindi senza un prezzo fisso, ma soprattutto abbiamo deciso di non fare la politica dell'abbonamento mensile, perché ci sembra una pratica che non è adatta né dal punto di vista pratico né politico al cinema indipendente. D'altronde non è un caso se gli unici che fanno abbonamenti mensili, parlando di cinema ma anche di altre tipologie di situazioni, che possono veramente permetterselo sono i grossi distributori internazionali mainstream, la Netflix, Prime e quant'altro, perché ovviamente viaggiano su un ragionamento completamente diverso. Il cinema indipendente, se viene diffuso con un abbonamento mensile, rischia, secondo noi, almeno questa è l'analisi che abbiamo fatto, di scivolare nel sottoposto, ed è una pratica che rischia di essere un boomerang, nel senso che poi alla fine questo cinema indipendente non riesce a crescere. E quindi abbiamo deciso di applicare da un lato il criterio a donazione libera obbligatoria, quindi quello che facciamo da 7 anni, cioè chiunque può accedere con quello che può, e noi consigliamo una cifra a cada film come abbiamo sempre fatto in questi 7 anni, anche in questo nuovo modello stream, ma dall'altra parte è sui singoli film. Vuoi vederti quel film e averlo nella tua libreria personale per sempre, lo puoi fare con questi criteri. Quindi abbiamo deciso di prendere questa direzione. Abbiamo lanciato il 22 maggio questo nuovo sistema, che adesso è a pieno regime e che potete appunto navigare andando su openedv.it, con un'anteprima di Milky Way, il nostro film che, ahimè, uscì in sala il 6 di febbraio e che dopo 3 bellissime anteprime a Brescia, Bologna e Torino, tutto sold out, è stato purtroppo, come tanti altri produzioni indipendenti e autori indipendenti, messo letteralmente in ginocchio dalla situazione. Quindi abbiamo fatto questi 3 giorni di proiezione speciale attraverso questo nuovo sistema, che è servito a noi da un lato anche per fare un po' di autofinanziamento, perché ovviamente il cinema indipendente ci può girarci intorno, sia il cinema indipendente che le sale cinematografiche indipendenti, e di sé stanno rischiando grosso, nel senso che il danno lo pagheremo soprattutto noi, e lo sappiamo che andrà a finire così. Quindi bisogna ulteriormente accelerare tutti i percorsi di strategie alternative, di nuove strade, nuove modalità, eccetera, eccetera, perché è chiaro che ci aspettano dei mesi molto duri. Sappiamo che da ieri le sale hanno riaperto, sappiamo anche che non tutte hanno riaperto, sappiamo anche che quelle che hanno riaperto a modalità ridotta, e quindi sappiamo anche che di tutti i comparti prima chiusi e poi riaperti, i due fronti più, diciamo, colpiti e che vedono la riapertura molto più lenta di altri sono la scuola, l'educazione e la cultura, e da questa riflessione bisogna partire. Questo giugno avete inviato la newsletter per alcune novità che avete segnalato, segnaliamole anche a chi ci ascolta. Certamente, ve ne segnaleremo alcune, le 3 principali, perché una cosa molto bella è che il nostro catalogo in questi mesi è cresciuto tantissimo. Considerate che noi di solito acquisiamo 4-5 film al mese, dai primi di marzo sono quasi 100 i titoli che abbiamo accolto sul catalogo. Questo è perché evidentemente tante autrici e autori ci hanno contattato, anche probabilmente sulla spinta dello streaming di comunità e di questa esperienza che è stata anche su scala nazionale, diciamo, ma anche perché forse c'è la necessità di fare rete e di costruire una comunità di intenti, che poi non deve per forza passare da un catalogo on demand, ripeto, perché poi questa è la nostra piccolazione, questa unità di intenti deve andare su un piano di discorso molto più ampio, perché se non uniamo le forze davvero e non a parole in questa fase non andiamo molto lontani, secondo me. Detto questo, vi segnalo alcuni dei titoli che sono arrivati in queste settimane, alcuni sono molto interessanti. Uno su tutti è Nimble Fingers, che probabilmente conoscerete, un film di Parsifal Reparato che è stato circuito festival 2 anni fa, vincendo anche parecchi premi in Italia e all'estero. Ed è un film molto bello che racconta la vita dell'operaio vietnamite che lavorano nelle fabbriche dell'elettronica mondiale, quindi Kodak e tutta un'altra serie di brand che hanno le loro aziende, o comunque le hanno delocalizzate in Vietnam. E quindi è un film che tocca le tematiche dei diritti, del lavoro e quant'altro, su una chiave anche di lettura che è quella di una società ormai a tutti gli effetti globalizzata, soprattutto quando si parla di diritti calpestati. Quindi anche qui c'è tutto un ragionamento che va riaperto, soprattutto dopo quello che è successo questi mesi. È un film molto bello perché innesta anche delle parti di animazione dentro il documentario, e ultimamente Parsifal, l'autore, ha fatto un lavoro veramente importante, e non è un caso che abbia circolato tanto. Non era ancora arrivato nella sua fase on demand, quindi nella fase della visione da casa per le persone, e adesso finalmente inauguriamo insieme questa fase che è partita la settimana scorsa. Abbiamo poi acquisito altri 2 film di Silvano Agosti, che ormai è una presenza stabile e importante sul nostro catalogo, che sono L'uomo proiettile e Nel più alto dei cieli. Con Silvano Agosti noi abbiamo fatto ormai nell'ultimo anno e mezzo, quando abbiamo iniziato a accogliere i suoi film e i suoi libri, un percorso graduale che piano piano si sta di fatto trasformando in una sorta di videoteca digitale, di archivio digitale di tutte le sue opere, e abbiamo continuato questo percorso anche adesso e non è ancora finito, quindi insomma, per noi è un piacere continuare ad accogliere le sue opere nel nostro catalogo. Altri due film che vi segnalo: uno è Una canzone senza finale, un film documentario che arriva dalla città di Torino. I protagonisti anche di questa sera sono i Tuzzi Brothers, che è una band culto della Torino degli anni Ottanta. Abbiamo ultimamente acquisito diversi documentari e film da quello che è tutto il panorama delle produzioni indipendenti torinesi, ma ad esempio la Zenith Produzioni, la Zenith Archivi Produzioni di Torino ha messo sul nostro catalogo diversi suoi film. Adesso è arrivato questo. Abbiamo anche 77 Non Commercial Use, che è sempre un altro film che arriva dalla galassia delle produzioni indipendenti torinesi. E ultimo, ma non meno importante, da qualche mese abbiamo aperto in maniera più mirata anche quello che riguarda tutte le esperienze politiche e di aggregazione comunitaria nei territori cosiddetti provinciali dell'Italia, soprattutto concentrandoci su tutto quello che sono le esperienze e i legami che le nuove forme comunitarie, spesso anche non abbastanza visibilmente riconosciute su un ambito più generale, stanno richiedendo nel nostro paese, soprattutto secondo me anche la ricerca di un senso nuovo di cos'è il concetto di comunità e come questo concetto si lega con il territorio in cui questa comunità vive e cresce. Il mese scorso avevamo acquisito Entroterra, ad esempio, che è un film molto bello prodotto da Carcass of Factory, che tocca proprio questi temi. Questo mese ne è arrivato un altro che si chiama Le Terre di Tutti. Come vedi, il filo conduttore, cioè la parola chiave, rimane sempre terra, perché evidentemente c'è un percorso di rielaborazione collettiva anche su questo legame e penso sia arrivato il momento di affrontarlo. Ed è un altro documentario che in questo caso è ambientato sulla dorsale appenninica tra le Marche e l'Abruzzo, soprattutto le zone colpite dal terremoto del 2016-2017, e anche qui c'è il racconto, si centra soprattutto su come queste nuove forme di collettività e di solidarietà mutuale si stanno costruendo in questi ultimi mesi e anni, spesso a conseguenza anche di fatti traumatici, come è stato in quel caso il terremoto. E questo tipo di filone narrativo che da qualche mese abbiamo appunto accolto in catalogo in maniera più preponderante, secondo me non è assolutamente casuale. Noi siamo nel bel mezzo, perché quello che abbiamo vissuto è a tutti gli effetti un trauma collettivo, è inutile che ci giriamo intorno. Adesso vivremo, si spera, una fase di riformulazione, come posso dire, sedimentazione di quello che abbiamo vissuto, e io credo che l'unica cosa forse veramente importante e positiva di tutto questo è che abbiamo l'opportunità di rivedere il nostro concetto di comunità e di legame con il territorio in cui si vive, sotto qualsiasi profilo, della qualità della vita, del rapporto con l'ambiente, tantissime sottotracce del discorso che in realtà si intrecciano nell'unica questione principale, e cioè che forse sono un po' troppi anni che non viviamo veramente serenamente le nostre vite, spesso per cause esterne, vuoi che siamo sfruttati sul luogo di lavoro, vuoi che i soldi non bastano mai per arrivare alla fine del mese, e tutta un'altra serie di cose. Io credo che questi momenti di shock collettivo ci servono soprattutto per provare a rivedere questa nostra visione del concetto di comunità e anche di benessere, l'unico senso giusto che ha questa parola, e provare a prospettare delle nuove strade. Questa è l'unica cosa che veramente io credo sia il perno centrale del ragionamento che dobbiamo aprire tutti quanti, a maggior ragione dopo quello che è successo. Paco, io ti abbraccio, ci sentiamo presto per ulteriori aggiornamenti. Ok, grazie a voi. Tutta Scena Cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.